corpo di che sei, regina, madre, sposa, e dell'amor gelosa ti volta maestà. Ricordati, ricordati, gelosa, ti volta maestà. Ricordati che sei regina madre sposa dell'amor geloso, ti vuol la maestà, la maestà. Ricordati, ricordati che sei regina, che sei madre, che sei sposa. Ricordati che devo gelosa di volta maestà, gelosa di volta maestà. Pria che soffri la pena una servil catena, sì sì, questa tu devi, pietosa crudeltà, pietosa crudeltà. Regina madre sposa, e dell'amor gelosa ti volta maestà. Ricordati, ricordati, gelosa, ti volta maestà. Ricordati che sei regina madre sposa e dell'amor gelosa ti vuol la maestà, la maestà. Ricordati, ricordati che sei regina, che sei madre, che sei sposa. Ricordati che devo gelosa di volta maestà, gelosa